Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che cosa sono le B Corp? Sta per Benefit Corporation. Sono aziende for profit che vogliono però andare oltre l'obiettivo del profitto, creando un impatto sociale positivo. Società interessate al bene comune che fanno profitti. Molte di queste B Corp sono compagnie tecnologiche come Change.org, la più grande piattaforma al mondo per la promozione di petizioni online, che festeggia i 3 milioni di utenti. In Italia, nel mondo sono più di 80 milioni e 25 milioni di dollari di nuovi finanziamenti. Non male per un'impresa che non fa del profitto il primo obiettivo. In Italia il 67% delle donne indossa una taglia dalla 44 in su, ma il sistema moda sembra non accorgersene. Qualcosa però sta cambiando grazie all'esplosione di una vera e propria curvy mania che sta cambiando letteralmente il nostro immaginario estetico. Le modelle plus size, oversize, le definizioni sono molte e stanno vivendo un vero e proprio momento magico, come ci racconterà e confermerà tra poco una di loro tra le più richieste a livello internazionale. Il 2015 sarà l'anno delle tecnologie indossabili che incuriosiscono sempre di più i consumatori. Ne parleremo nel focus sui trend di questa settimana, riflessione finale dedicata invece all'economia del dono, per chiudere il cerchio, per così dire, su profitto, mercato e scambio. Ci sono momenti importanti nella storia di ognuno di noi, momenti che non potrai dimenticare. Come quella volta che un amico ti ha dato una mano e grazie al suo aiuto, insieme, avete cambiato le cose. A volte gli amici non hanno un volto, ma solo un nome, una firma che ha fatto la differenza. Così, 11 mesi fa, Change.org, la piattaforma di partecipazione e mobilitazione sociale numero uno al mondo, festeggiava 2 milioni di utenti in Italia. Oggi festeggia i 3 milioni. Nel mondo sono più di 80 milioni. Le petizioni di Change.org sono arrivate e arrivano tuttora sul tavolo dei cosiddetti grandi decisori, da Barack Obama in giù. Attivismo online, partecipazione dal basso e cambiamento sociale, questi gli ingredienti di una formula che raccoglie consensi e investimenti. 25 milioni di dollari, quelli appena annunciati, provenienti da grandi innovatori della Silicon Valley, del mondo del business e dei media come Richard Branson, Bill Gates, Arianna Huffington. Con Salvatore Barbera, direttore delle campagne di Change.org in Italia, siamo partiti da qui. I grossi finanziatori del web hanno investito su una piattaforma che è un po' diversa dalle altre, perché è una piattaforma che crede che gli strumenti del web possano essere uno strumento per cambiare veramente le cose, uno strumento di democratizzazione, di partecipazione delle persone alle decisioni pubbliche. Sicuramente un investimento importante che per noi sarà fondamentale sia per andare sul mobile, perché crediamo che gli strumenti mobile diventeranno sempre più importanti per accedere ad internet e quindi anche a partecipare agli strumenti di cambiamento, sia a migliorare gli strumenti per i decisori, quindi non solo le persone che mandano le proprie richieste, ma anche permettere a chi deve decidere di rispondere e di interloquire con le richieste che gli arrivano, e anche arrivare in più paesi. Adesso siamo in 18 paesi, abbiamo 180 persone in 18 paesi, ma ovviamente ci sono molti paesi in cui uno strumento come Change.org può essere fondamentale per innescare il cambiamento. Anche in Italia una crescita forte. In un anno siete passati, neanche un anno, da 2 a 3 milioni di utenti. Una crescita esponenziale che in 2 anni e mezzo in pratica siamo passati da poco più di 100.000 utenti a 3 milioni. Parliamo di circa il 10% della popolazione online italiana, che è intorno a 30 milioni, abbastanza bassa, una delle percentuali di penetrazione tra le più basse nei paesi occidentali, e di questi 3 milioni sono persone che ogni settimana ricevono un'email per chiedere di attivarsi su una delle nostre campagne, e quando lo ritengono opportuno lo fanno. Abbiamo migliaia di campagne attive, abbiamo campagne con centinaia di migliaia di firme, e forse la cosa che però ci interessa di più: nel 2014 abbiamo avuto fino ad oggi 89 vittorie, speriamo. Manca ancora qualche giorno alla fine di quest'anno, quindi speriamo entro la fine dell'anno di festeggiare le 90 vittorie. Ci sono, come dire, dei macro trend per le vostre campagne? Su quali filoni avete visto che si dividono maggiormente? Sicuramente questo anno e anche nell'anno precedente la politica ha avuto una grande rilevanza, la politica sia dal punto di vista dei temi più di attualità, quindi anche in questi giorni quello che riguarda la corruzione, gli sprechi dell'amministrazione pubblica, sia a livello nazionale ma anche in tanti casi che vengono fuori a livello locale. Tantissimi temi sull'ambiente sicuramente e per esempio sulla disabilità, che è un tema che invece difficilmente trova spazio nei media mainstream. Su succedi.org sono tantissime le storie, per esempio una storia che a me piace tantissimo è quella di un gruppo di ragazzi di 20 anni, che sono un gruppo di ragazzi sordi che hanno lanciato una radio, pur essendo sordi sono stati forse i primi al mondo a lanciare una radio e a organizzarla in modo indipendente, che hanno lanciato una petizione per chiedere che la loro lingua, la lingua dei segni, la LIS, non è ancora riconosciuta in Italia, una lingua che è riconosciuta in altri 44 paesi del mondo, che l'ONU richiede a tutti i paesi di riconoscere le proprie lingue dei segni, e in Italia ancora non è stato fatto. Un problema forse più piccolo rispetto a quelli che leggiamo tutti i giorni sui giornali, ma che però riguarda oltre 60.000 persone in Italia e che speriamo possa presto raggiungere un risultato positivo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase and all the right junk and all the right places. Con questa hit da 380 milioni di visualizzazioni su YouTube, la giovanissima Meghan Trainor è diventata la paladina dell'accettazione di sé e del proprio corpo, perché ogni centimetro di te, canta, è perfetto dalla testa ai piedi. Un altro segnale della curvy mania che sta dilagando. Il più evidente è il boom che stanno vivendo le modelle dalle forme generose, sdoganate quest'anno anche dal calendario Pirelli, che ha introdotto una top curvy tra le cover girl del 2015. Più siamo, meglio è, ci dice Elisa Dospina, modella plus size tra le più richieste del momento, blogger, curvy coach, così si definisce nelle scuole per parlare alle ragazze dei problemi legati all'ossessione per l'aspetto fisico. L'ha intervistata Adriana Fracchia. Beh, sicuramente, come dico spesso, più siamo meglio è, no? Ecco perché appunto nasce anche poi un libro scritto, che è uscito ad aprile con Giunti Editore, dove racconto la mia storia, una storia che adesso, vabbè, sembra tutto bello, no? La modella che va in giro, che è dalla provincia, arrivata in America, però insomma il percorso, poi immaginate poi in un mondo come quello della moda, chiuso, dove c'è la taglia zero che è imperante, arrivano donnone come me, Candice, che dicono, beh no, esistiamo anche noi, chiaramente insomma l'esordio non è stato tra i più facili. Adesso dopo 4-5 anni di lavoro se ne parla, però se la mia esperienza può essere utile anche a una delle migliaia di persone che incontro, quello è già un piccolo obiettivo, perché appunto poi si soffre veramente tantissimo del giudizio altrui, si soffre di tutto quello che è comunque sia appunto pareri discordanti sì e non sulla fisicità. Tra donne si sa che un sei magra è veramente un complimento, solo che beccano l'unica, sono io, a cui non gliene frega proprio niente, che non considera questo un complimento. Poi ogni tanto mi pento anche di aver portato in Italia questa parola, no, curvi, perché alla fine andiamo a ghettizzarci ancora di più. Però inizialmente, come ho spiegato spesso, era utilizzata nella moda, perché nella moda la 44 è considerata una taglia forte. E quindi sentire dire che una 44, a prescindere dall'altezza, è una taglia forte, mi sembrava veramente discriminante e anche molto pesante. E quindi ho preso in prestito questa parola curvi, che oggi è un po' è anche mal usata, perché con curvi si intende un po' tutto, sia da qualche curva in più, qualche chiletto in più, sempre con riguardo alla salute, fino ad arrivare all'obesità, e non è proprio quello il messaggio che vogliamo dare, perché poi sappiamo l'obesità fa parte dei disturbi alimentari, è un discorso molto serio di cui non si può essere leggeri. Ecco, ma andando nelle scuole, il polso che hai della situazione qual è? Cioè, hai la sensazione che davvero è un grosso problema e che per le ragazzine questo è diventato un po' una fissazione, o sta migliorando un po' la situazione? Beh, nell'era dell'immagine sicuramente la fisicità è importante, basta pensare che la prima cosa che ci chiedono i social network è proprio quella di mettere un'immagine, quindi è inutile nascondersi dietro un dito. È vero anche che c'è molta riflessione sull'argomento e che ci sono le ragazze che chiaramente hanno delle ossessioni fisiche parecchio accentuate, tanto di che aumentano in questi anni sempre di più i casi proprio nelle scuole all'interno delle classi di disturbi alimentari già in cura addirittura, quindi ragazze che mi confermano che hanno iniziato un percorso di un certo tipo, mentre devo dire che ho un bellissimo riscontro da parte dei ragazzi, i quali nonostante tocchiamo delle tematiche che sembrano prevalentemente femminili, alcune volte si aprono, perché chiaramente gli disturbi alimentari non riguardano solo le donne, ma sono anzi loro a incoraggiare le loro compagne a volersi bene per quello che sono. Una delle tante frasi che uno dei ragazzi mi ha detto è: ma Elisa, ma se io porto a cena una ragazza, no? Ma sarà più bello che mi mangia la pizza e mi fa sorridere piuttosto che una che sta lì tutta triste, che non vuole mangiare e magari appunto perché è un po' depressa non mi fa passare una bella serata in allegria? E questo un po' racchiude tutto, soprattutto se parliamo di ragazzini di 13-14 anni. Tu pensi che ci siano sempre più aperture, quindi dal mondo della moda, che poi è quella che detta un po' l'immagine, ovviamente, per quanto riguarda poi la televisione, i media e tutto quanto? Beh, dal 2010 ad oggi i passi da gigante sono stati fatti, perché le aziende hanno puntato su linee curvi, plus size, oversize, chiamiamole come vogliamo. Quindi l'apertura della moda c'è, anche perché hanno capito che le donne hanno bisogno di vestirsi e quindi in qualche maniera, se vogliono vendere, devono allargare un po' il loro range di taglie. Dall'altra parte trovo anche che ci sia molto marketing, come sul calendario Pirelli, insomma si utilizza una con la nostra fisicità per far sì che se ne parli. Quindi sono contenta dell'apertura, però mi auguro che ci sia un attimino di attenzione sui termini e sui messaggi che si vogliono comunicare. Bikeology. È il momento della nostra finestra sul mondo delle due ruote, storie e personaggi che attraverso la bicicletta raccontano nuovi stili di vita e di consumo. Dalla bicicletta, del resto lo abbiamo ripetuto più volte ormai, passa tutto quanto fa tendenza. Oggi uno dei nostri insider del mondo bici ci è venuto a trovare in studio, Nicolò De De Vitis. Ciao Nicolò. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, bike blogger, una bici, una foto, un istante di vita a due ruote ogni giorno sull'account Instagram Divano Letto, da 40.000 follower. 40.009. Vai, perfetto. Un modo anche per promuovere una mobilità diversa, soft, felice, soprattutto anche in inverno, Nicolò? Sì, comunque la bici è proprio a 365 giorni. Certo, bisogna prendere dovute precauzioni, perché comunque sappiamo che coprendoci e invece poi pedalando ovviamente si suda, e il sudore è il primo nemico. Però comunque esistono un sacco di rimedi, quindi Kiway, giacche termiche, magliette termiche. Anche ho visto adesso, stamattina proprio, è uscito un tettuccio da mettere sulla bicicletta, in modo tale che quando piove non ti bagni. No, ci sono un sacco, capirai, nel 2014 ci sono c'è di tutto. Un sacco di device, chiamiamoli, esatto, così, per la bicicletta. E poi raduni in giro per l'Italia, Nicolò. Ne abbiamo già raccontati, abbiamo raccontato quello di Firenze, quello di Roma, l'ultimo dov'è? L'abbiamo rifatto a Roma, sempre con un bel po' di persone. Bellissimo, ogni volta che faccio queste cose, ti ripeto, non, come sai, non è che lo faccio per scopo di lucro, ma proprio perché vedere tutte queste persone che vengono e ti conoscono, ti abbracciano, boh, fighissimo. Tra l'altro il vostro claim lo usate anche come hashtag, sì, su Twitter, non freniamo per nessuno, esatto. È veramente bellissimo. Anche perché poi a Roma, sai, teoricamente partiamo sempre con la polizia davanti e poi non si sa, sparisce, quindi veramente non freniamo per nessuno, andiamo dritti, fermiamo tutti. Non è come Critical Mass, quindi questo ci tengo a precisarlo, non è che ci blocchiamo la strada. Già è troppo il divario tra macchina e bicicletta, l'odio, veramente sembra il gatto e il cane. Invece no, cerco veramente di limare questa cosa e non freniamo per nessuno. Non è, può sembrare alla critical mass, ma assolutamente no. Voi siete inclusivi, non siete esclusivi, esatto, da questo punto di vista, quindi un modo anche per unire, no? C'è, esatto, un po' di tutto ai vostri, sì, sì, radoni. Sì, sì, sì, esatto, no, ma un sacco di gente, per esempio, che con la bici pieghevole, che è anche una cosa che io promuovo alla fine, con Car2Go, magari, comunque le macchine col car sharing, prendi una bicicletta pieghevole, te la metti in macchina, arrivi dove devi andare, ti fai quel pezzetto in bici, comunque ti alleni. Non sono integralista, cioè, certo, no, parola d'ordine intermodalità, quindi esatto, per unire, sì, tutti i pezzettini del nostro modo di spostarci, esatto. Che poi di vagonetto, no? Deriva da questo, no? Versalità, adattarsi alle situazioni, e quindi anche questo, no? Quando ovviamente se devo fare il raccordo prendo la macchina, quando sono in centro, certo, vado con la bici. Certo, grazie a Nicolò De Vitis per esserci venuto a trovare. Alla prossima. Grazie, ciao. Essere e avere. Puoi anche piangere se vuoi. No, no, il pianto è una naturale conseguenza del dolore. Non sto piangendo. Ora eseguirò uno scan. Non provarci nemmeno. Scan completato. È incredibile. Non hai riportato alcuna lesione. Tuttavia, i tuoi livelli di ormoni e neurotrasmettitori indicano che sei soggetto a sbalzi d'umore, comuni nell'adolescenza. Diagnosi? Pubertà. Focus sui trend. Parliamo di wearable technologies, di tecnologie indossabili, uno dei principali trend del momento: microcomputer, smartwatch, occhiali e braccialetti, tutti quei gadget, insomma, che possiamo usare come supporti smart per usi e contesti diversi. Secondo una ricerca firmata Forrester Research, il 45% degli americani e il 32% degli europei si dicono incuriositi da questi oggetti, anche se poi solo il 10% e il 4% rispettivamente ne possiede uno. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, iniziamo col dire che cosa sono e a cosa servono. Inquadriamoli subito come oggetti di consumo. Beh, i wearables in sostanza sono dei veri e propri assistenti per poter fare le cose meglio, in modo corretto o anche in modo più semplice e più veloce di prima. Sicuramente avrete sentito parlare di smart band, smartwatch, braccialetti e orologi intelligenti. Il più famoso, l'Apple Watch, non è ancora uscito, uscirà però a breve, all'inizio del 2015. O anche i Google Glass, degli occhiali a realtà aumentata che offrono informazioni in tempo reale su ciò che si sta guardando. I wearable in realtà possono assumere però anche la forma di altri accessori. Ci sono wearables in forma di spilla, anelli, charms, scarpe, persino degli abiti. Ma diciamo innanzitutto che grazie ai wearables cosa si fa? Si rilevano, si monitorano ed elaborano tutta una serie di segnali che possono essere esterni al corpo o anche interni, non so, per dire semplicemente la temperatura corporea, ma anche delle informazioni che si raccolgono attraverso una connessione del wearable Wi-Fi ad altri dispositivi, il computer, lo smartphone, e poi di conseguenza si ottengono delle informazioni di feedback che sono molto utili, e in certi casi i wearables danno dei veri e propri suggerimenti su cosa fare o su come, non so, migliorare la propria attività o una specifica condizione. Sono molto usati nel fitness, il filone è quello del cosiddetto quantified self, mi misuro, dunque sono, per così dire. Sì, i primi e sicuramente ancora i più diffusi di questi dispositivi indossabili sono i fitness trackers, cioè appunto, come dicevi tu, quei wearables che tengono traccia dell'attività fisica di chi li sta indossando, non so, i chilometri percorsi, i passi fatti o i movimenti compiuti anche in relazione a diversi sport, il tennis, il calcio e le calorie bruciate e così via, e questo per fornire delle statistiche e dare dei consigli su come migliorare la propria performance fisica. Troviamo il Nike Fuel Band o anche Samsung Gear Fit o quello della Sony Smart Band, Fitbit Charge, però da questi classici diciamo che si sta passando a una categoria di fitness trackers anche più evoluti, soprattutto dal punto di vista del design, ma anche da un punto di vista funzionale, perché quelli nuovi hanno un approccio più globale, più allargato al benessere fisico, non solo all'attività fisica. In questo senso interessante è Jawbone Up. Questo braccialetto è molto raffinato, non ha un display suo, ma usa quello dello smartphone al quale si connette, è di gomma, è morbido e comodo, si può tenere tutto il giorno e anche di notte. Infatti Jawbone Up registra e fa l'analisi poi dei dati relativi sia al sonno, al movimento e all'alimentazione, e così permette di capire meglio tutto il proprio stato di salute. Il sistema app inoltre permette di collegare le proprie app preferite, quindi non so, anche quelle per la corsa, Runkeeper e altre ancora, e di integrare tutte le informazioni in modo da poter fornire poi suggerimenti sempre più precisi e diciamo sempre più anche sistemici. Un altro esempio interessante di fitness trackers è sicuramente Shine della Misfit, perché è un dispositivo sempre con sensori, processore interno, la sua applicazione da mettere sullo smartphone che misura ed elabora l'attività fisica, ma la sua peculiarità è la forma, veramente originale. È un bottone di alluminio dal design essenziale e con un ingombro quindi minimo. Ha una superficie touch, cioè che funziona a sfioramento, con 12 piccolissimi LED bianchi. E per caricarlo ha bisogno solo di essere appoggiato sullo smartphone. È interessante perché nella versione base è fornito di una fibbia sul retro con la quale lo si può attaccare sui vestiti o sulle scarpe, però esiste già tutto un sistema di accessori venduti separatamente, dai bracciali alle collane in pelle o diversi materiali, che lo rendono, diciamo, non solo un dispositivo funzionale qual è, ma anche proprio un bell'oggetto. Ecco, a proposito della portabilità, molti designer, molte case produttrici stanno puntando sui gioielli per questo tipo di oggetti. Sicuramente alcuni tra i nuovi wearable sono accessori che diventano veri e propri gioielli da indossare anche tutti i giorni. Un esempio tra i tanti che mi ha colpito è quello di Ringly. Ringly è un bel anello con una pietra dura semipreziosa al centro, una linea classica, c'è anche la possibilità di scegliere tra pietre diverse. E cosa fa? Si sincronizza con iOS e Android, quindi lo smartphone, e vibra per avvisarti in modo molto discreto se in arrivo una chiamata, un messaggio, un'email, e questo quindi permette alle donne di lasciare tranquillamente lo smartphone in borsa senza però il rischio di perdersi nessun avviso. Ed è anche in questo caso possibile connettere Ringly anche ad applicazioni diverse, tra le più diffuse, quindi Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e quant'altro, insomma. Si può dire che i wearable del futuro dovranno essere contemporaneamente connettivi e decorativi, cioè unire le funzioni digitali alla piacevolezza e, perché no, visto che si parla di giovani, anche al divertimento. Un esempio in questo senso sicuramente è Nextband, che è sia un braccialetto personalizzabile che uno smart device con sensori. Non ha un display tradizionale, ma è fornito di 5 tacche dove si possono inserire dei piccoli pezzi chiamati mods, che sembrano dei veri e propri charms come quelli dei bracciali, diversi tra loro, alcuni dei quali decorativi e altri invece con una funzione, anche in questo caso però personalizzabile a seconda che uno voglia fargli fare il fitness tracking o l'invio di semplici messaggi con codice colore, che può connettere così le diverse persone che indossano un Nextband. Su quali target si sta puntando in particolar modo per questi oggetti? Beh, una delle frontiere più calde, abbiamo visto, per i giovani è la modularità e la componibilità. Pensiamo alle famiglie, no? Quindi genitori, figli insieme, o anche giovani teens e le loro madri. C'è un caso interessante che va in questa direzione, Sense Mother si chiama, ed è proprio un sistema di oggetti che aiuta a monitorare diversi aspetti della vita domestica. È formato da un dispositivo di base e poi si completa di un gruppo di sensori, che sono dei motion cookies, cioè dei rilevatori di posizione, di movimento, di temperatura e quant'altro, che possono essere attaccati appunto come dei cookies ovunque, a uno zaino, a un elettrodomestico, a uno spazzolino da denti. E questo sistema permette diversi usi. Per esempio, si può portare fuori casa per misurare le distanze mentre si cammina o si fa jogging, ma anche assicurarsi che i membri della famiglia siano tornati a casa. Non so, mio figlio è rientrato, lo posso vedere tramite Sense Mother. Capire anche quanto spesso vengono utilizzati degli oggetti e poi monitorare la qualità del sonno. Insomma, le funzioni sono molteplici, ma il bello è che l'interfaccia del software, che si può guardare per esempio sul tablet, permette di fare dei confronti e di mettere in gara, come in un gioco, i diversi membri della famiglia. Lo scenario è sempre di più quello dell'Internet of Things, anzi meglio si usa dire adesso Internet of Everything, cioè un mondo pieno di oggetti che si parlano e ci parlano, soprattutto come abbiamo sentito. Grazie ad Isabella Guaitoli, alla prossima. Arrivederci, arrivederci a tutti. Il consumautore. C'è raggiunto in studio, come sempre a questo punto, Francesco Morace, ben ritrovato. Grazie Maria Luisa, buongiorno a tutti. Oggi so che ci proponi un tema molto in linea, diciamo così, con il periodo. Sì, perché una riflessione sul dono, sul donare, ma soprattutto sulla capacità che ha il dono di creare relazione. Noi siamo abituati a pensare che il dono è gratuità, è qualcosa di improvvisato. Invece è qualcosa, come spiegava Marcel Mauss in questo saggio che ha fatto un po' la storia anche dell'antropologia, che è il saggio sul dono, e spiega che dietro al dono ci sono sistemi di relazioni molto importanti e che contano sempre di più. Parlare di dono in tema di consumi, di marketing, del resto di questo che parliamo in questo spazio, sembra quasi un ossimoro, invece oggi non è così, Francesco. Non è così, perché se pensate a quanto la gratuità almeno iniziale di una proposta sia oggi decisiva, capiamo anche che poi a partire da una dimensione che era stata un po' dimenticata, che è quella della riconoscenza, si può essere riconoscenti in confronti di una brand, di un'azienda che ti ha regalato qualcosa, ti ha offerto qualcosa senza doverla pagare, tanto che gli americani, che poi sono molto bravi a targare queste situazioni, l'hanno chiamato il freemium, quindi qualcosa che è free inizialmente, è un dono, ma che poi diventa premium e quindi viene pagata a volte anche tanto. Facciamo qualche esempio? Sì, un esempio recente molto bello, che è una giornata 19 settembre che è stata dedicata da una banca norvegese, che è la DNB, ai propri clienti, perché questa banca ha acquistato tutti gli spazi pubblicitari di un emittente importante norvegese per pubblicare, proporre tutti gli interventi dei loro clienti che davano suggerimenti alla banca. Quindi per un giorno intero, anche per dimostrare che la banca è aperta 24 ore su 24, questo restituire gratuitamente la voce del cliente, del consumatore, che è quello che tutti teorizzano ma che è difficile fare. Co-creazione, strategia a costo zero, molto, molto bello questo esempio. Ecco, oggi sul dono, sulla gratuità, grazie ai mezzi digitali, ma non solo, si sta costruendo una fetta importante dell'economia, funzionale certo alla parte in cui governa ancora il profitto, ma comunque significativa. È significativa e non è in alternativa al profitto. La cosa interessante è che questi due mondi dialogano tra di loro, e quindi il regalare qualcosa può comunque costituire poi motivo di credibilità futura per poi vendere qualcos'altro. Ecco, è un affiancamento importante di una sharing economy che aiuta la profit economy in un momento di difficoltà. Grazie a Francesco Morace, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere Avere torna domenica prossima alle 15. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.